Per l'ennesima volta l'illusione che la stele di Aksum, l'obelisco trafugato in epoca coloniale, possa tornare a casa in breve tempo è destinata a rimanere tale. Non c'è ancora un bando di gara d'appalto per il trasporto in Etiopia ed è dunque improbabile che la restituzione della stele possa avvenire entro giugno, data imposta dall'inizio della stagione delle piogge, che renderanno poi impossibile per mesi recapitare l'obelisco. Le ultime dichiarazioni sulla possibilità di un rientro della stele entro l'estate rientrano dunque ormai nell'archivio delle promesse non mantenute. Se ne riparlerà forse a fine anno. Ma la telenovela della restituzione, decisa con atto ufficiale dal Consiglio dei Ministri il 19 luglio del 2002, rischia comunque di proseguire con un'altra puntata, ma con regia svedese o tedesca. Stoccolma e Berlino si sarebbero infatti rese disponibili a erigere l'obelisco una volta giunto in loco, un'ennesima beffa nella beffa. Disarticolate in tre blocchi, le 160 tonnellate della stele aspettano di partire in un deposito della capitale, dove sono state stoccate dopo la riparazione del danno inferto da un fulmine nel maggio di 2 anni fa, quando, per ironia della sorte, Berlusconi teneva a Pratica di Mare uno degli eventi internazionali cui teneva di più. A porta di Piazza Capena, dove campeggiava dinanzi alla sede della FAO, la stele adesso non c'è più, smontata, riparata e trasportata in un ricovero della Polizia di Stato di Roma Nord, aspetta di partire, ma per ora si è arrivati solo a individuare i vettori, gli Antonov dell'aviazione russa. Quando potranno partire per Aksum, però, non si sa. Non lo sa nemmeno l'onorevole DAN Teodoro Buontempo, che, non certo perché favorevole alla restituzione, aveva chiesto lumi al governo in un'interrogazione del novembre scorso, senza risposta. Emanuele Giordana, lettera 22 a Misnet.